Chi è il professor Gravità? Sono io, naturalmente. Nel senso che, scherzi a parte, c'è dentro un pochino della mia filosofia, un pochino di me e soprattutto tutta una serie di personaggi, sono biologi, ecologi, antropologi che vanno in giro per il mondo e hanno a cuore il nostro pianeta.